Radio 3 Lezioni di musica. Giorgio Cerasoli. Invenzioni e sinfonie a due e tre voci di Johann Sebastian Bach. Prima parte. Un cordiale saluto da Giorgio Cerasoli e benvenuti a una nuova lezione di musica dedicata a una delle più interessanti raccolte che Johann Sebastian Bach ha lasciato per strumento a tastiera. Sto parlando delle invenzioni e sinfonie, conosciute anche come invenzioni a due e tre voci, Bach Werke Verzeichnis dal 772 al numero 801. Oggi parleremo delle invenzioni, quindi delle invenzioni a due voci, e domani delle sinfonie, quelle che normalmente chiamiamo invenzioni a tre voci. La copia autografa di questi brani, potremmo dire una bella copia, risale all'anno domini 1723, posteriore di un anno dunque al primo volume del Voltemperierte Klavier. Va anche ricordato come una versione precedente di questi brani sia contenuta nel quaderno per Wilhelm Friedemann Bach, redatto nel 1720. Invenzioni e sinfonie sono rispettivamente denominate lì preambula e fantasie. L'ordine è diverso e ci sono leggere differenze di testo. A quale strumento a tastiera, casalingo ovviamente, non l'organo che era solo nelle chiese, a quale strumento a tastiera fa riferimento Bach? Naturalmente al clavicembalo, ma anche al clavicordo, che nella Germania di quel periodo era molto apprezzato e diffuso. L'esecuzione al pianoforte, alla quale molto probabilmente siamo più abituati, non a caso è entrato questa raccolta è entrata nella letteratura didattica per il pianoforte. L'esecuzione al pianoforte, dicevo, è certamente possibile e può offrire un affascinante risultato sonoro, né più né meno di una al vibrafono o allo xilofono. Ma noi oggi è come se stessimo parlando di un film facendolo ascoltare in lingua originale e non in versione doppiata, approfittando per di più del fatto che per la musica non abbiamo bisogno di conoscere una seconda lingua, come sarebbe se dovessimo ascoltare dei dialoghi, per esempio, in inglese o in tedesco. Ecco dunque come suona sul clavicembalo la prima invenzione in Do maggiore a due voci che apre l'opera. Il suono che avete ascoltato è di un clavicembalo italiano, un suono scuro ma equilibrato, ottimo per il basso continuo, e qui potrà rendere più chiare le trame bachiane. Dunque, una raccolta di 15 composizioni, oggi appunto quelle a due voci, domani le sinfonie. E sono così brevi e non appartengono a una forma predeterminata, anzi l'invenzione non è proprio una forma, il nome stesso rimanda alla creazione di un'idea, al suo trattamento musicale. Dunque, ciascuna composizione è ricca di elementi che la rendono diversa dalle altre. L'opera potrebbe naturalmente essere esaminata in profondità solo mettendo sotto la lente di ingrandimento ogni singolo brano, ovvero andandone a scoprire così i segreti costruttivi. Si potrebbe fare una lezione di musica su ogni singola invenzione, perché dietro la semplicità discorsiva che abbiamo ascoltato c'è un rigoroso comportamento compositivo. Quello che vorrei fare invece è provare a individuare il filo conduttore, le trame comuni di questi 15 brevi brani, e in questo ci aiuta lo stesso Johann Sebastian Bach, che fa precedere la musica da queste parole scritte di suo pugno. Il titolo di questa prefazione valutazione è Aufrichtige Anleitung, ovvero metodo veritiero, sincere istruzioni. Il sincero è un po' il linguaggio anche del 600 e del 700 in italiano. Dunque, metodo veritiero nel quale agli appassionati della tastiera, agli amatori e particolarmente a quelli desiderosi di apprendere, quindi abbiamo già un sottogruppo, è mostrato in maniera chiara non solo, primo, come suonare appropriatamente a due parti, ma anche, dopo ulteriori progressi, secondo, come trattare tre parti obbligate correttamente e bene, e allo stesso tempo non solo come essere ispirati da buone invenzioni, ovvero idee musicali, ma anche come sviluppare le stesse in maniera corretta e soprattutto come acquisire un modo cantabile, cantabile è in italiano, un modo cantabile di suonare e acquisire un forte gusto della composizione. Dunque vediamo questa duplice finalità, metodo di studio per la tastiera e metodo per la composizione, su questa invenzio prima, che dunque è un bicinium, appartiene a quella categoria di brani con due parti, quindi ogni mano suona una linea separata dall'altra, e poi vedremo anche come si raggiunge questo modo cantabile di suonare, e l'altro è quello appunto di avere buone idee musicali e svilupparle in modo appropriato, anche con artifici del contrappunto, per raggiungere un forte buon gusto nella composizione. Ora, su questo secondo punto, vediamo come la stessa idea musicale è usata in maniera diritta e anche rovesciata e ripetuta nella stessa voce o ripartita fra le due parti per sostenere l'intero brano. Se noi vediamo il tema iniziale, subito interviene la mano sinistra, poi destra, poi sinistra, e poi abbiamo già il rovesciamento di questa idea musicale, che viene ripetuta per altre tre volte. Mano sinistra, e poi abbiamo qui una piccola conclusione, e poi abbiamo un dialogo fra le due voci. Vedete che si alternano il tema nel modo dritto e nel modo rovesciato. Dicendo, insomma, l'intero brano è costruito sviluppando questo unico nucleo, e per quello che riguarda il discorso del modo cantabile di suonare, naturalmente Bach insiste molto, fermo restando che ci troviamo di fronte a degli elementi molto semplici dal punto di vista tecnico, cioè sono dei frammenti di scale delle terze sciolte, dove l'autore ci chiede, attraverso la logica, cioè attraverso quelle minime variazioni ritmiche alle quali l'interprete sottopone una frase musicale per esaltarne la forza espressiva, e attraverso la logica, dicevo, e attraverso l'uso di piccole articolazioni, di arrivare a quella contabilità citata, avere un po' come un dialogo fra due strumenti, evitando ogni meccanicità inespressiva. Attenzione proprio a questo discorso della cantabilità, alle caratteristiche intrinseche del materiale musicale, e vediamo cosa succede in un'altra invenzione, la seconda, in Do minore, dove l'idea musicale qui è più ampia, addirittura copre, articolata su tanti elementi, quindi non è un'unica idea musicale, ma uno sviluppo, copre quasi metà del brano. Qui abbiamo un elemento ritmico. E qui abbiamo un elemento più discorsivo. Abbiamo un elemento molto espressivo invece. Qui di nuovo un elemento più discorsivo. E poi il brano si sviluppa utilizzando frammenti di questi elementi che noi abbiamo sentito. Ma la cosa interessante è cosa fa Bach. Bach usa un artificio contrapuntistico, ovvero fa entrare, per la durata del brano fin dove ve l'ho suonata, fa entrare la voce inferiore o un'ottava inferiore in canone. Ovvero A questo punto fa sovrapporre le parti più ritmiche con le parti più espressive e viceversa. Quindi richiede una estrema indipendenza all'esecutore, che non è chiamato soltanto a suonare note diverse con le mani diverse, ma anche a seguire un fraseggio diverso, esattamente come se fossero due strumenti diversi. Ci troviamo di fronte a uno dei primi problemi di carattere così materiale, ovvero incroci fra le due voci. Eccetera. Ovvero abbiamo le due voci che fanno quella inferiore. E questa è quella superiore. Allora, questo incrocio di parti ci fa magari ipotizzare l'uso di un clavicembalo a due manuali. Questa domanda in realtà viene meno nel momento in cui pensiamo al clavicordo, per esempio, che sicuramente era uno strumento che aveva un'unica tastiera. Quindi, ancora una volta, forse è l'intento compositivo e non quello esecutivo a prevalere, nel senso che magari l'esecutore può eliminare un abbellimento oppure può arrangiarsi, perché nello scorrimento delle parti la cosa passa in secondo ordine. Come abbiamo visto nell'invenzio numero 1, anche l'invenzio numero 4, che peraltro ha un carattere più strumentale, ma richiede nel tema di sottolineare il salto di settima diminuita, che come figura retorica potremmo chiamare anche saltus diurisculus, richiede di sottolineare espressivamente questo tratto, questa caratteristica del tema, però in realtà adopera per tutto il brano, non fa altro che adoperare il tema nella maniera così come viene esposta e in maniera rovesciata. Vedremo che anche altre di queste invenzioni giocano sul materiale dritto e rovesciato per costruire tutto il brano. Un'altra caratteristica che abbiamo visto in queste invenzioni è che sia la numero 2 che la numero 4, anche la numero 1, iniziano con una sola voce, cioè la seconda voce, la parte inferiore in questi casi che abbiamo sentito, si inserisce successivamente. Ma abbiamo anche il caso in cui un'invenzione inizia con un materiale tematico che è affidato per esempio alla mano destra, come nel caso della Invenzio quindicesima, e alla mano sinistra viceversa accompagnata soltanto da un semplice brano. Viceversa, è il materiale musicale che accompagnerà poi il tema iniziale svolto dalla mano sinistra, quindi il tema iniziale è e quando rientra la mano sinistra abbiamo la mano destra che mette un altro materiale tematico in gioco. Ovvero ovvero mettendo insieme questi primi frammenti abbiamo questo basso iniziale, e Bach quindi riesce anche a inserire elementi così sporadici ma di accompagnamento, fermo restando che poi la densità così speculativa si manifesta proprio in questo uso di tutte le sfaccettature, anche degli elementi conclusivi, per esempio di un'idea musicale. Qui non è che possiamo parlare di tema o di soggetto come nel caso di una fuga, però per esempio nel caso della sesta invenzione, che è peraltro interessante perché abbiamo una forma bipartita formalmente, abbiamo due parti con ritornello e abbiamo peraltro una struttura vagamente tripartita, perché poi ora vedremo c'è una sezione centrale che sviluppa una parte terminale del tema che fa un po' un'isola a sé stante, e abbiamo dall'inizio per esempio lo stesso materiale tematico usato in maniera retta e rovesciata, perché abbiamo una scala affidata alla voce inferiore. Mentre la mano superiore, la mano destra, quindi la voce superiore, fa una scala per moto discendente con un cromatismo e tutta in tempo con l'artificio dell'andamento sincopato, che naturalmente possiamo sentire soltanto nel momento in cui le andiamo a mettere insieme queste mani. Quindi insieme suonano. A questo punto c'è una piccola coda, un elemento ritmico che ci ricorda anche il terzo brandeburghese. Questo è il tema del terzo concerto brandeburghese. Qui Bach usa una figurazione analoga. Quindi abbiamo. Si rovesciano i ruoli, quindi la mano destra fa una scala ascendente, la mano sinistra va per gradi discendenti e col cromatismo che abbiamo sentito prima. Allora, quello di avere un elemento ritmico di questo tipo è usato da Bach anche come elemento per poter creare questa che io ho chiamato sezione centrale, ovvero se noi ascoltiamo la seconda parte ci accorgiamo che a un certo punto inizia un momento quasi di parentesi in un'altra tonalità minore. Ecco, abbiamo sentito che riprende il tema iniziale, ma abbiamo sentito questo momento di sviluppo del tema ritmico, che rappresenta un po' una forma di sviluppo, una forma di tripartizione. Dunque, nell'Invenzio 6, una cellula ritmica, ma anche melodica, che è sviluppata, abbiamo visto, per una sezione centrale, ma anche usata nell'intero brano. Che dunque, oltre a un elemento melodico, possa essere un elemento ritmico a far da propulsione all'intero brano, lo dimostrano invenzioni come la numero 8, in fa maggiore. Bach prosegue su questo brano utilizzando anche su figurazioni differenti questa serie di quartine di semicrome, per esempio. E, eccetera. Oppure la quattordicesima di queste invenzioni, che è in tonalità di si bemolle maggiore. Subito ripropone il materiale tematico rovesciato. Bach va avanti con questa cellula ritmica, e poi di nuovo un artificio contrappuntistico, ovvero il materiale tematico dell'inizio affidato alla mano sinistra e la mano destra che fa esattamente quello che prima faceva la voce inferiore. Dunque, questo è un aspetto interessante, ma torniamo da quello compositivo all'aspetto, diciamo, di metodo per strumento a tastiera, per vedere come alla fine il materiale tematico sia costituito da quelli che sono gli elementi di base della tecnica per uno strumento a tastiera, ovvero un campionario dove ci sono scale, frammenti di scale, arpeggi, terze sciolte, note legate e via dicendo. L'aspetto dell'ornamentazione, avremo modo di ritornarci più approfonditamente parlando domani delle sinfonie, non è da trascurare. Il quaderno per William Friedman conteneva la spiegazione dei principali abbellimenti, ma di certo sia in quella redazione sia in quella del 1723 c'è un vistoso risparmio di segni scritti, e probabilmente Bach lasciava il compito a William Friedman o agli allievi di completare la pagina. Un piccolo esempio ce lo dà proprio per le invenzioni, riguardo alla prima di queste invenzioni, quella in do maggiore che abbiamo ascoltato in apertura del programma, dove fornisce una versione con dello stesso Bach con delle terzine al posto dei salti di terza, ovvero invece di Bach inserisce una terzina ecco, il brano continua dunque a sostituire alla prima stesura per terze sciolte queste terzine. È un esempio di diminuzione, ovvero dell'inserimento di più note rapide fra i vuoti presenti fra le note scritte. Questo naturalmente si può applicare anche in altri casi di questi brani, ma è tutta l'ornamentazione segnata che a questo punto si rivela soltanto indicativa e suscettibile di una appropriata intensificazione, ovviamente a condizione che l'esecutore abbia raggiunto un'adeguata padronanza dello strumento. Sempre sul versante della didattica dello strumento a tastiera, è chiaro a questo punto che Bach non punta a una mera destrezza meccanica, ma punta piuttosto allo sviluppo della musicalità dell'esecutore, della sua sensibilità alle sfumature del testo musicale che si trova davanti, e dunque prediligere sempre la chiarezza del fraseggio, la cantabilità e non la velocità, nemmeno nei brani rapidi, perché a brani rapidi noi possiamo applicare il tempo che lo stesse indicazioni di tempo e il carattere del brano ci lasciano intuire anche in relazione a quelle che sono le altre composizioni di Bach. Per esempio l'Invenzio 10 ha un tempo chiaramente di giga e dunque eccetera. Ora, questo tempo di giga, che naturalmente non è più rapido di così, perché non è questo il carattere di questa danza che, da cui prende in prestito Bach il tempo appunto in questa Invenzio 10, questo tempo per uno studioso di clavicembalo o di clavicordo può naturalmente essere anche ridotto. Bach chiede magari all'esecutore di fare un'esecuzione più lenta, ma sottolineando anche in un ritmo così vorticoso, anche sottolineando comunque tutti gli elementi che ci sono. Quindi se noi suoniamo questo brano un po' più lentamente, e via dicendo, Questa non è naturalmente un'esecuzione, però per uno studente può risultare molto utile avere un quadro d'insieme e soprattutto padroneggiare l'indipendenza delle parti. Proprio sull'indipendenza delle parti avremo modo di tornare più approfonditamente domani, parlando delle sinfonie, ovvero delle invenzioni a tre voci, che Bach fa succedere a questa prima raccolta, primo gruppo nella stessa raccolta di invenzioni. Al termine dell'ultima invenzione, Bach scrive in latino Secuntur ad hoc, quindecim sinfonie, tribus vocibus obligatis. E dunque ci lasciamo su questa citazione latina dello stesso Bach e ci diamo appuntamento a domani per un'ulteriore lezione di musica. Radio 3 Lezioni di musica, a cura di Paola Damiani. Potete ascoltare le invenzioni a tre voci di Johann Sebastian Bach dal sito di Radio 3 cliccando su Classica Radio 3.